Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo noi di 451 Frammenti Sonori in diretta qui da Radio Città del Capo, appunto, 96.25 modulazione di frequenza stereo oppure 94.700. Siamo rientrati dunque nell'anno nuovo, mentre la mia voce si modula attraverso le manipolazioni del grande Max Macchia, che è alla console, alla regia. Buonasera, beh, una bella voce. Sono molto ormonale io, però adesso correggiamo. Ovviamente il 2010 per noi ha un significato abbastanza importante, dato che praticamente realizzeremo il decennale della trasmissione, dunque prepareremo nell'ottica futura di questo anno di trasmissione degli speciali dedicati a questo decennale, poi volta per volta vi spiegheremo meglio il tutto. Chiaramente 451 Frammenti Sonori nel nuovo anno dobbiamo comunque seguire la tradizione di ricordare che una trasmissione legata alla ricerca sonora e alla sperimentazione, e riprenderà con anche l'aggiornamento del nostro no blog presente appunto su 451 Frammenti Sonori tutto attaccato @noblogs.org, dove potrete appunto accedere per comunicare con noi e ovviamente anche chiaramente navigare nel blog per avere informazioni sulle varie trasmissioni, sulle puntate e anche sui documenti. Sì, nel frattempo ti sto diventando la voce a Sandro Ciotti, ti ho beccato, nuovo anno, ma tu proprio con la raucedine, niente da fare. Ma è una questione anche di... di stile. Sì. Sì, insomma è uno stile un po'... di cordialità anche, no? Perché la voce di Ciotti comunque era cordiale, era avvolgente. Sì, poi tu sei un grande amante del pallone, no? Dello sport. Bravo. Nello sport in generale, sei un grande sportivo anche, e quest'anno in effetti per festeggiare il decennale di 451 Frammenti Sonori faremo una puntata sullo sport. Sullo sport, faremo ginnastica direttamente qua in radio. Bello. Una cosa sperimentale che ci tenevo a dire, insomma. Benissimo, allora, ma interessante questo cambiamento vocale. Caro mio, è anche una questione di microfonazione. Sì, ecco, adesso funziona. No, vabbè, ci sono dei piccoli, diciamo, problemini che dipendono i soliti che da 10 anni ci portiamo dietro. Anche nostri, della radio, anche di tutti, anche dei passanti, anche di Bologna, di voi che state ascoltando. Bene. Di bene, Carmelo. Carmelo, sì. Abbiamo fatto la trasmissione in chiusura dell'anno scorso. Bene, andiamo così come si dice di solito a bomba e andiamo a presentare il tema di stasera. Oggi riapriamo appunto l'anno nuovo con la trasmissione di stasera, affrontando il tema che abbiamo voluto denominare Impro 00, è dunque un lavoro che cerca di portare dei frammenti su prodotti musicali e progetti musicali che si muovono sull'impro, ovviamente connessa a questo decennio appena trascorso, e affronteremo e ci dipaneremo attraverso progettualità anche piuttosto differenti, ma accomunate appunto dall'idea che abbiamo voluto colorare stasera sul appunto Impro 00. Sì, per iniziare quindi questa sorta di doppio invio tra un decennale che si compie, che è nostro, e quello poi in realtà sarà a febbraio per 451, ma anche questo, se vogliamo, possiamo anche spostarlo al 2011, visto che per molti versi, anche se entra lo zero, però poi di fatto è l'uno, il primo numero che darà via al decennio, pur se siamo abituati insomma a considerare l'anno zero chiaramente come l'inizio del nuovo decennio. E doppio invio perché questa sera appunto l'Impro 00 va dentro quelle che sono le ultime tendenze dell'improvvisazione, un filo rosso che portiamo avanti da un bel po' di anni, forse già dall'inizio, quella di improvvisazione radicale o meno radicale, e dentro le ultime tendenze sicuramente ci sono Wolf Eyes con un impro noise sicuramente di impatto devastante, di brutismo e anche comunque di un certo savoir-faire, chiamiamolo così, usiamo una francesizzazione, forse non va particolarmente bene per i Wolf Eyes, ma fatecela passare, perché veramente poi a distanza di quasi, anzi oltre 10 anni di attività, Wolf Eyes veramente sanno elaborare il rumore come veramente i grandi maestri di questo suono, come di questa tecnica, se vogliamo chiamarle anche così, molto virgolettate, come Merzbow o altri grandi che hanno fatto anche in America un po' da scuola anche a Wolf Eyes, vedi Kevin Drum ad esempio. Ci andiamo a sentire quindi come Impro 00, prima trasmissione appunto del 2010 di 451, frammenti sonori in compagnia di Eliseo è Scarpa. È Max Mac, hai ragione, ho saltato sto appuntamento. Ma siamo un po' nuovi in tutto, allora le cose vecchie non ce le ricordiamo più. Meglio. Wolf Eyes, ultimo disco, Always Wrong, poi dopo festeggeremo un altro decennale. Bene, tornati in diretta, abbiamo Andrea Lissoni. Prima parlavamo di un decennale di Netmage, decisamente importante per quanto riguarda il festival bolognese, che molti conoscono tramite, insomma, un grosso battage, non soltanto pubblicitario ma ovviamente sostanziale, di iniziative musicali che appunto vanno avanti da 10 anni in maniera egregia, partendo dalle elettroniche degli anni zero, passando poi per il vario mondo del glitch, fino ad arrivare al noise americano molto curato negli ultimi anni. Quindi uno dei festival, insomma, che sicuramente ha respiro europeo. Tra l'altro, insomma, ci sono media partner anche decisamente importanti, oltre che questa radio c'è anche, per dirne uno molto grosso, Wire, giornale, insomma, riconosciuto in tutto il mondo come appunto giornale di riferimento per quanto riguarda sperimentazioni e musiche eclettiche da tutto il mondo. E appunto, andando a fare due chiacchiere, provando a sentire telefonicamente Andrea Lissoni, che fa parte della direzione artistica di Netmage appunto 10, andiamo, insomma, a fare due chiacchiere, festival che tra l'altro inizierà appunto tra qualche giorno, giovedì, e per 3 giorni, insomma, sarà qua a Bologna. Andrea, ci sei? Sono. Oh, benissimo, abbiamo avuto qualche piccola questione tecnica, ma ce l'abbiamo fatta. Intanto, appunto, se vuoi parlarci come direttore artistico dell'edizione che appunto segna il decennale quest'anno di Netmage, sulle serate, sulla progettualità specifica di quest'anno. Bene, io magari racconto un po', poi fermatemi voi se mi dilungo troppo. Diciamo okay. Che basicamente abbiamo deciso che in occasione del decennale forse la scelta più proficua rispetto alla nostra identità era quella invece di essere celebrativi, magari fare un best of, andare un po' più a fondo ancora, se mai fosse possibile, nella ricerca. Se dovessimo, come dire, dirla in due parole, dando un po' due assi di riferimento, senz'altro da 2 anni a questa parte stiamo cercando di strutturare il festival sempre di più come se fosse una mostra. Questo lo diciamo molto chiaramente nel testo di introduzione, che non vuol dire che ci sono delle installazioni, ma che vuol dire che da un concerto all'altro, da un live media all'altro, c'è un filo segreto che si tesse e si intesse e dà forma a quello che noi continuiamo a chiamare un immaginario, un mondo di riferimento. Questo, certo, come dire, è l'intento curatoriale. Poi abbiamo anche un'idea rispetto a qual è questo immaginario, ma ve lo lasciamo scoprire dal sito o magari ve lo racconto ancora un po' meglio. Invece, dal punto di vista dell'articolazione, il cambiamento principale quest'anno è che innanzitutto non siamo più una settimana di arte fiera, quindi siamo questa settimana entrante, iniziamo giovedì, e forse la grande novità è che ci sono meno immagini di quello che ci si immaginerebbe, con questo piccolo gioco di parole. Cioè, Netmage ha questa caratteristica rispetto a forse tutti i festival italiani e anche gran parte di quelli internazionali, che ha un bando aperto che, come sapete, apre a giugno. Arrivano sempre un gran quantitativo di progetti, è sempre più difficile scegliere quelli di qualità, ma questo bando internazionale in fondo è lo strumento per capire meglio qual è il gusto, quali sono le punte emergenti, qual è la ricerca che ci interessa poi assecondare e sostenere. Certo. Quest'anno ci ha sorpreso la mancanza di immagini, per cui ce ne saranno, rimaniamo un festival che si domanda cosa sono le immagini all'epoca della rete, però ce ne saranno, come dire, in modo meno appariscente, meno pirotecnico e più misurato e forse più scapista. Però ecco, questo è dato 2 tracce. Sì, no, questa cosa è abbastanza interessante. Quindi, partendo dalla base, tu dici che, cioè, chi va mandato il materiale, insomma, sta curando meno questo aspetto, tra virgolette, curando meno, insomma, no? Da quello che, da sì, quello che... forse è un po' meno ossessionato dalla necessità di come dire, arricchire dei suoni già densi con delle immagini, che è un punto di allontanamento da quell'estetica di avvolgere, di colpire, di stimolare sensorialmente. Cioè, come se ci fosse una grande concentrazione sulla capacità di produrre dei suoni con qualità e di performare anche, fondamentalmente. Sì, si sta probabilmente superando, insomma, la generazione del PowerBook e quindi di un suono essenzialmente, insomma, non grigio, però sicuramente meno emotivo, meno comunicativo, e forse la musica sta ritornando in questo senso in primo piano. Sì, guarda, siamo allineati a quelli che un po' tutti dicono essere le tendenze, tutti quei tre grandi critici internazionali dicono essere un po' le direzioni, cioè adesso il più, come dire, il più ovvio è Simon Reynolds, cioè a suonare molto, a saper suonare quello che si suona, a usare il computer come uno strumento remoto tra i vari a disposizione sul tavolo, a fianco del tavolo, ma non come quello centrale, con qualche fulgida eccezione, però insomma questa è un po' la direzione, qui si sentirà suonare molto, questo è un annuncio, è un'anticipazione. Ma è per questo che negli ultimi anni avete puntato anche molto sul noise, nuovo noise americano, quindi un modo molto più forte, molto più di impatto, di comunicare musica appunto? Sì, un po' sì, un po', poi però come vedi siamo anche molto, spero, in grado di raccogliere il segno dei tempi che cambiano, nel senso che ci siamo anche un po' accorti che quella era una scena che aveva avuto una potenza straordinaria, di cui era giusto rendere conto, in particolar modo negli episodi di così dire newyorkesi da una parte, di Ann Arbor e, del Michigan insomma dall'altra, e di Providence soprattutto. Ma è una scena che forse ha un po' esaurito quella necessità anche compositiva, magari ha ancora un'urgenza performativa, ma ha un po' esaurito la necessità, per cui quest'anno ci è sembrato molto interessante rappresentare due esempi opposti. Uno è Nana Priljun, che è questo svedese che lavora sull'ontologia del noise solo in digitale, senza immagini, con cui apriamo il festival, un po' un rischio anche interessante, è un giovane artista visivo. Il noise è una traccia, è un eco, è qualcosa che c'è stato, è come se fosse un eco di un'era passata. E poi invece il giorno successivo con Aaron Dilloway, che è comunque storica, infatti figura storica, che però paradossalmente ci interessa di più forse per un aspetto biografico molto importante, che è quello di aver passato un lungo periodo in Tibet a lavorare, a campionare, a raccogliere suoni che non vengono dalla centralità a cui di solito viene associato, per cui non sentirete campane tibetane, però come dire, il festival quest'anno ha provato a spingere un po' in altre direzioni, e Dilloway ci interessa anche per quello, come figura seminale, come uno che si è messo anche a esplorare fuori dall'orticello di casa sua. Giusto, ricordiamo anche ovviamente che le serate in cui si strutturerà NetMage 2010 saranno giovedì 21 gennaio, venerdì 22 gennaio e sabato 23 gennaio. Oltretutto quello che tu ci dicevi rispetto a Nana April, June, è alle ore 24 live Media Floor, proprio giovedì in apertura, nella giornata di apertura, mentre Dilloway sarà appunto come ultimo concerto live Media Floor alle 23.30 il venerdì 22 gennaio. Poi ci sono ovviamente molti altri progetti da seguire, uno oltretutto lo intervisteremo in parte più tardi, sarà il progetto che verrà presentato alle 21 sabato 23 gennaio alla Sala Mangrovia Nassa, e troveremo appunto Daniela Cattivelli che ci insieme a Pilia, insieme a altri, sì, insomma, altri musicisti, con lei appunto faremo un altro piccolo intervento per parlare anche con gli artisti, in questo caso italiani, che sono presenti all'interno di NetMage, no? Senti, un'ultima cosa Andrea ti volevo anche chiedere prima insomma di lasciarti libero, anzi di rimanere legato ai tuoi impegni di NetMage, insomma. E, abbiamo visto che ci sarà comunque la performance di Dupont, e ci chiedevamo appunto come si potesse allargare così il festival rispetto anche alle performance art, insomma più in generale, quindi più legate non so, in questo caso alla danza o altre forme espressive. Ma guarda, in realtà NetMage nasconde sempre come grande fantasma l'arte contemporanea, nel senso che se voi guardate il programma, sia Carlos Casa, sia Rachida Zanni, sia Francesco Cavaliere, sia Nana April, che poi Christoph Lamgren, sia una delle ragazze di Exoplanet Girls, che è Nadine Byrne, sia uno dei due Mike Atizanelian, sono artisti visivi, cioè sono persone che lavorano nel campo dell'arte contemporanea facendo mostre e esposizioni classicamente in galleria. Vincent Dupont è una presenza che noi vogliamo sostenere e, come dire, decidiamo di costantemente portare avanti, non la sua ma quella delle arti performative, quindi della danza di ricerca, quella delle performing arts come vengono chiamate poi in ambito anglosassone. L'anno scorso Bocca e Vicenza avevano rappresentato una specie di meravigliosa punta, come un verso, no? Come esattamente quello che il festival toccava non dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista dei fantasmi, dei corpi, delle ossessioni, dei riti, dei miti anche nascosti dietro a un evento di questo genere. Per cui con il supporto di Stigliafanti, che anzi no, con la cura di Stigliafanti, che sempre cura la sezione performativa, ci apriamo e teniamo aperta con volontà questa area, che non è una parentesi, non è una fuga extradisciplinare, ma qualcosa che pensiamo abbia senso incorporare e mostrare. In questo caso avremo a che fare con una strana stanza in cui si rimetteranno in gioco le misure del corpo, del performer, di chi guarda e del campo sonoro e visivo in gioco. Per cui qualcosa che ha a che fare col festival, che quest'anno molto si occupa di capire cosa significa uscire di sé, uscire da sé, andare verso un altro spazio, andare verso lo spazio e andare verso un altro luogo. Per cui è un'uscita di campo, ma un'uscita di campo che si accorda perfettamente con lo spirito curatoriale del festival, e come tante altre, nel senso che poi appunto una cosa a cui tengo sempre molto è la scena italiana. Avete accennato prima dei Nina Cattivelli, insomma vogliamo e crediamo sempre che sia importante sostenerla tanto, e sappiamo di essere tra i pochi, se non gli unici, ma è un punto di onore e di necessità, assolutamente. Bene, ringraziamo quindi Andrea Lissone, ti lasciamo al tuo lavoro, probabilmente anche notturno. Sì, non si ferma mai. immaginiamo. Sono persone che sono un po' dappertutto. Ci credo. Bene, ti ringraziamo, allora ovviamente ricordiamo a tutti gli ascoltatori le tre giornate di NetMage, giovedì 21 gennaio, venerdì 22 gennaio e sabato 23 gennaio, e comunque chiunque voglia appunto avere il quadro, il calendario preciso, può andare tranquillamente sul sito di NetMage, che è abbastanza oltretutto conosciuto ormai sulla scena elettronica. Tra l'altro ben curato anche, sì, complimenti sì. Anche in questo senso. Va bene, salutiamo Andrea, grazie Andrea. Grazie Andrea. Buon lavoro. Ci vediamo giovedì. A presto, ciao. Grazie. Ciao, a presto. Bene, siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un piccolo passaggio piuttosto caotico, dunque ci scusiamo con gli ascoltatori, chiaramente l'intervista... Siamo sempre caotici, caro. Però, sai, bisogna essere precisi come i Lord, come sei tu qua, mi Lord. Io sono più Conte, succede anche questo. Comunque, insomma, siamo rientrati, diciamo anche appunto dopo l'intervento di Andrea Lissoni, direttore artistico di Netmage, abbiamo mandato un altro brano sempre di Wolf Eyes, tratto dall'ultimo lavoro Always Wrong, appunto uscito nel 2009, e adesso ci spostiamo invece a fare... Tra l'altro, no, scusa se ti interrompo, prego. Vedremo proprio Aaron Dillaway. Bravo, giusto ricordarlo, venerdì. Sì, infatti venerdì 22, che è insomma, uno storico dei sì. Wolf Eyes. Wolf Eyes a Live Media Floor alle 23.30 con Lee Ang-Yoon e Hong Shul-chi, e dunque questo progetto appunto che affrontava anche in precedenza il curatore Andrea Lissoni rispetto a questa collaborazione, anche rispetto ad autori che uscivano dalla dimensione prettamente statunitense. Adesso siamo riusciti anche a collegarci con uno dei musicisti, una delle musiciste di punta della serata di sabato 23 gennaio alle ore 21 alla Sala Mangrovia. Ci sarà appunto, oltre al progetto NASA americano, anche il progetto appunto dove sono presenti anche artisti e artiste italiane, tra cui appunto Daniela Cattivelli, che abbiamo in collegamento telefonico. Daniela, ci sei? Sì, ci sono. Batti in colpo se ci sei. Ci sono, Ho battuto. Hai battuto, bravo. Si sente? Sì, si sente abbastanza. Come, in primo luogo, vabbè, come va, visto che ci conosciamo da tempi immemori? Piuttosto bene. Sì. Questo 2010 mi piace. No, ti piace, mi piace, visto che non ci sentiamo, vediamo dal 2009, diciamo la prima informazione è questa, questo 2010 mi piace. Vedi? Sì, beh, d'altronde poi sei sempre stata, come dire, abbastanza ottimista di carattere, cosa che insomma non condividiamo particolarmente questi, noi due che siamo lupi grigi. Lupi grigi? Sì, lupi brutti. Lupi neri, vabbè. Anche po' neri, sì. E tra l'altro appunto questo tuo ottimismo e questa tua apertura ti ha permesso anche di sperimentare con personaggi insomma che provengono a parte da varie parti, varie zone territoriali e poi anche varie età e varie attitudini musicali, no? Mi sto riferendo al progetto che porterai sabato alla Mangrovia alle ore 21 appunto dentro Netmage. Ce ne parli un po' come è nata appunto la collaborazione con Pilia, con Kammerer, Belfi, Grill e IDA? Certo, allora il progetto ha un titolo, si chiama The Elegant Universe, e in sostanza diciamo è ospitato e anche diciamo sostenuto da Netmage, che diciamo lo produce, ma essenzialmente diciamo la nostra proposta all'interno del festival nasce dalla curiosità di sviluppare un materiale su cui io e Margaret stavamo diciamo lavorando da tempo, ma diciamo con dei tempi molto diluiti e in modo intermittente, nel senso che noi viviamo in due città diverse. Margaret, che è appunto la voce del gruppo, vive a Berlino e io vivo a Bologna, e diciamo abbiamo diciamo sviluppato questo corpus di canzoni, sono in sostanza delle canzoni, e mi incuriosiva diciamo molto l'aspetto di proporre in una dimensione come Netmage, più attenta al discorso dei live media, dell'evoluzione della musica elettronica, una parentesi appunto che avesse un fuoco sulla canzone. E ci piaceva anche l'idea di coinvolgere appunto per sviluppare questo corpus su cui stavamo lavorando, di coinvolgere altri musicisti da tempo, diciamo, osservavamo a distanza, insomma, il lavoro di Andrea Belfi e anche di Stefano, che insomma sono musicisti che stimiamo e che si muovono appunto nell'ambito della ricerca del suono, delle composizioni elettroacustiche, e poi sono anche, diciamo, strumentisti di certo valore, diciamo, molto dotati, e che comunque, diciamo, in questi anni, diciamo, hanno sviluppato un percorso che pensiamo, diciamo, vicino al nostro. E in sostanza li abbiamo, diciamo, invitati assieme a noi a lavorare, diciamo, attorno e dentro a queste cellule che sono, insomma, delle canzoni molto molto strane. E, mi sentite? Sì, sì, c'è qualche problemino tecnico, ma ti sentiamo, okay. Ancora. E diciamo, questa è stata, diciamo, questo è un po' il senso del progetto, diciamo, una sorta di lavoro su delle canzoni espanse che hanno perso quella che era la loro forma originaria, e che, diciamo, proprio perché, diciamo, il progetto ha coinvolto altri musicisti, altri suoni, ha preso, insomma, un'altra forma, ed in più c'è anche, diciamo, l'apporto visivo di Micaela Grill, che invece questa filmmaker, artista visiva che ha base a Vienna e che, insomma, da anni produce installazioni sonore, film, video, che ha anche collaborato con svariati musicisti come Christoph Kurzmann, Toshimaru Nakamura, Giuseppe Ielasi, quindi diciamo che ha un'attitudine, diciamo, sua anche a sviluppare progetti assieme ad altri musicisti. Senti Tania, ti volevo anche chiedere, hai parlato di canzone, che forma di canzone, cioè a quale tradizione della canzone, se di tradizione si può parlare per la canzone, cioè, allora, quella italiana, quella europea? Guarda, è buffo, perché, diciamo, paradossalmente, diciamo, il riferimento è, per me, io dico stranamente blues, perché anche per mio gusto e mia esperienza è strano per me poi riferirmi a questo sapore, però diciamo che di base appunto siamo partiti da delle strutture, diciamo, che ricordano, alludano a una sorta di blues un po' minimalista e stralunato e astratto, che poi, diciamo, verrà traslato una forma ancora più bizzarra, diciamo, però è forte questo riferimento, diciamo, al blues, e forse anche, diciamo, in questo senso anche il lavoro, diciamo, di Margaret ha spinto parecchio, diciamo, in questa direzione. Benissimo, allora Daniela, ricordiamo ancora appunto il concerto, che sarà alle ore 21 sabato 23 gennaio, Sala Mangrovia, e dunque ci troveremo sicuramente lì, e speriamo, insomma, sia una buona serata, una bella serata, ma sicuramente lo sarà, no? Me lo auguro. Grazie ancora Daniela. Io sono quella ottimista. Appunto. No, vabbè, ma non te la prendere adesso. è buono, perché noi, vedi, non riusciamo poi a far niente, invece tu fai le cose allargate, l'ensemble, quindi... Grazie Daniela. Grazie Daniela. Ciao. E buona serata. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Just see you. I'll tell you what, it feels great to be here at Good Bob Blue Monday in Brooklyn, New York, in Bushwick. And, well, you took the JMZ to get out here, and I'll tell you what, that JMZ will take you all the way deep into Brooklyn. Who gives a fuck, Queens? Shit. My nipples is hard. Shrouds himself amongst the obstacles, trapping blindsight knee-deep in a modern sanctuary of fuzzy bubble arrangements. Like a swarm of iridescent bumblebees suspended in a jawbreaker of petrified honey, each pandering self-imitation stings with a high degree of temporal dharma. Like a bite of shame resonating in the disintegrating hulls of sunken vessels fused to one transformative crack, that revolving vortex generating a deep frozen drone, that echopraxic charity to motor resignation nurturing in swirls of auroral insight, that foreshadowing resolve to the fate of abundant production enveloping its celestial surges, the giant eyeball of narcissistic gnomes bestriding fractal patterns, repeating and shrinking, spinning faster and faster into an axis of equidistant interval despite excessive inhumination. In darkness, a sense of proficient flight, then molecular bonds take shape, dots and particles appear, fragmenting, subdividing. The elements poke and drills pour in broad and abrupt swells of increasing pace until discernible behavior ceases, looking in all directions at once and experiencing a universal remembrance. Sitting on a cloud above the universe, surrounded by 100 floating 10-armed cephalopod marine mollusks. They were pink and blinking, resonating some sort of archetypal harmony. Taliban dal loro ultimissimo disco Bougie in The Breeze Blocks, un disco delirantissimo dentro un impro assolutamente divertente, dentro un paesaggio sonoro con riferimenti ad Albert Tyler per quanto riguarda una sorta di bandismo sonoro con tanto di New Orleans che esce fuori e che però si mischia poi con rumorini elettronici, basette demenziali, rock and roll marziano, cioè veramente un po' di tutto. Ogni pezzo ha un percorso assolutamente accidentale dentro un'improvvisazione che quindi veramente riesce a rimasticare qualsiasi cosa. E forse sia con Taliban, ad esempio prima l'esempio di Wolf Eyes, si va su quella sorta di improvvisazione che andando fuori dai canoni anche costruiti nel corso degli anni, anche da percorsi decisamente rivoluzionari, tende appunto ad andare oltre e a inventare quindi un nuovo modo di improvvisare che prevede veramente tante più cose rispetto anche a personaggi storici che insomma rappresentano anche dei pilastri per noi, come grande Bailey, Gustafsson, tra l'altro dopo sentiremo anche, eccetera eccetera, insomma grandi personaggi che hanno fatto la storia dell'improvvisazione radicale del Novecento. Ma qua appunto siamo nelle tendenze degli anni zero, e negli anni zero troviamo anche Anthony Pateras, che velocissimamente come un fulmine vi lancerò, perché tra poco scatterà il GR di Radio Popolare Network, dunque il tempo non ci sarà. Rientreremo dopo il GR di Radio Popolare Network intorno a 00:50 circa, proprio con il brano di Pateras che ovviamente dovremmo tranciare in questo passaggio. Ovviamente buon ascolto con Anthony Pateras, rientreremo dall'album, in questo caso Chromatophone. 4, uscito nel 2008 per la Zadig. Buon ascolto e a risentirci dopo il GR.